Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Resta in Italia fino al 30 aprile il Marolla Torre, ha deciso la corte indiana, trattative in corso per far tornare anche Salvatore Girone. Un arresto per l'attentato ieri a Istanbul, rimanete nel sud della Turchia anche 3 cittadini russi per sospetti contatti con l'ISIS. Si fa più intensa l'attività militare francese e americana sulla Libia e più alto il rischio che l'Italia resti fuori dalla partita. Ieri spari contro un impianto ENI nel paese. L'omicidio della ragazza a Firenze, si analizzano le telecamere di sicurezza, potrebbe esserci un sospettato. La Corte di Strasburgo ha dato il via libera ad un licenziamento per uso privato di mail aziendale. Che rischi ci sono? Ne parleremo con un giuslavorista. La scelta della Diesel per la prossima collezione, pubblicità anche su siti di incontri e su quelli porno, è il mondo in cui viviamo, dice il direttore creativo. È ufficiale la Roma, un nuovo allenatore, torna Luciano Spalletti, il presidente Pallotta, grazie a Rudy Garcia, ma è il momento giusto per cambiare. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci un'email oppure il 349-238-6666 che è tanto il numero per gli sms quanto quello per WhatsApp. In apertura, dunque, la vicenda dei due Marò. Oggi la decisione della Corte indiana su Massimiliano Latorre, che potrà dunque restare in Italia almeno fino al 30 aprile. Massimiliano Latorre potrà restare in Italia fino al 30 aprile. A stabilirlo è la Corte Suprema indiana, che oggi ha prolungato la licenza concessa per motivi di salute al fuciliere di Marina dopo l'ictus che lo ha colpito nel 2014, un permesso che in caso contrario sarebbe scaduto venerdì. Assieme al commilitone Salvatore Girone, che si trova ancora nell'ambasciata italiana a Nuova Delhi, Latorre è al centro di una complessa vicenda giudiziaria che da ormai 4 anni oppone India e Italia. I due Marò sono accusati di aver ucciso 2 pescatori indiani nel corso di una missione antipirateria nel febbraio del 2012 a largo delle coste del Kerala. In estate il Tribunale del Diritto del Mare di Amburgo ha imposto ai due paesi di sospendere ogni iniziativa giudiziaria in attesa della conclusione della procedura arbitrale avviata alla Corte Permanente di Arbitrato dell'AIA. Dopo l'annuncio da parte della Corte Suprema indiana, il nostro Ministero degli Esteri ha fatto sapere che Latorre resterà in Italia per tutta la durata del procedimento arbitrale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di questo torneremo a parlare più avanti, lo faremo col presidente della Commissione Difesa del Senato, Nicola Latorre, che ieri aveva già dato la notizia in sostanza di quella che sarebbe stata probabilmente la decisione della Corte indiana di oggi, e aveva anche detto che, insomma, che le speranze anche per Girone, per l'altro Marò, sono buone, e vedremo di farci dare qualche dettaglio in più. Intanto torniamo a Istanbul, all'indomani dell'attacco che ha colpito il cuore della città, confermando la strategia terroristica di colpire anche i luoghi turistici, è avvenuto in Egitto, è avvenuto in Tunisia e ora tocca appunto alla Turchia. Facciamo un punto sulla cronaca e su quello che succede in città con Marco Barbonaglia, che oggi ha percorso le vie di una Istanbul che si sta riprendendo, nella quale, Marco, buongiorno, il distretto turistico è sostanzialmente vuoto. Buongiorno Simone, sì, il giorno dopo l'attacco ad Istanbul cambia molto. Passeggiando per la città da una zona all'altra, la città si sta riprendendo e girando per esempio nei quartieri più turchi, vale a dire insomma nella gran parte della città, tutto sembra normale. Le strade non sono deserte, il traffico normalmente molto intenso di Istanbul è come al solito, la gente va e viene. Quando si arriva a Sultanahmet, quindi nella zona turistica, tutto cambia. Io adesso mi trovo a Sultanahmet, per esempio, e si vede che comunque ci sono ancora giornalisti, ci sono ancora le troupe delle televisioni di mezzo mondo, c'è molta polizia, ma ci sono ben pochi turisti. Qualche turista si vede, i musei hanno riaperto, per esempio davanti ad Hagia Sophia, di solito ci sono code anche lunghissime in alta stagione, non c'è nessuno, si vedono soltanto le guide che con il loro distintivo al collo ciondolano sconsolate davanti all'entrata. La zona dell'ippodromo è circondata dalla polizia anche in questo momento e quindi a prima vista sembra di vedere anche oltretutto ben pochi europei tra i già pochi turisti che ci sono. Si vede qualche cinese o comunque asiatico, si vedono alcuni indiani, alcuni arabi, ma ben pochi europei. In verità devo dire non è una scena così tanto differente da quella che si vedeva già da 2 o 3 mesi. Probabilmente dopo diversi segnali, la paura del terrorismo era già alta dopo per esempio l'attentato ad Ankara di ottobre, e quindi sultanamente era già una zona semideserta, molti non l'avevano più scelta come meta delle loro vacanze. Va detto che adesso la situazione ovviamente sta è ancora più tesa. Marco, tu hai raccolto una voce tra l'altro tra le tante di Istanbul. Ho intervistato Ahmed che dice quando sono tornato, è un gestore, un manager di un hotel di Sultanahmet, possiamo sentirlo, e dice in verità non ci sono più molti turisti adesso, non ci sono molti ospiti nel mio hotel, ma alcuni che ho visto erano davvero molto spaventati, dice che gli hanno fatto molte domande, hanno chiesto come potevano cambiare i loro piani e tornare sostanzialmente a casa, alcuni avevano una prenotazione per 5 o 6 giorni e sono informati sulle regole dell'hotel per sapere come cancellare la loro prenotazione. Alla fine Ahmed ha concluso dicendo: è da tempo che mi aspetto che accada una cosa di questo genere, tutti parlavano di questo, non è una sorpresa per nessuno, meno per me. Ti ringrazio, grazie a Marco Barbonaglia per questo racconto da Istanbul. Torneremo a parlare di terrorismo più avanti nel corso della trasmissione. Intanto saluto Alessandro Merli del Sole 24 Ore, corrispondente della Germania. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Perché, come sapete, gran parte delle vittime dell'attentato di ieri erano tedeschi, 10 vittime, tutti tedeschi, ci sono altri 2 tedeschi che sono feriti gravi. Oggi il ministro dell'interno tedesco è arrivato in Turchia e un Angela Merkel, su questo volevamo una tua analisi, un tuo commento, Alessandro, che è stretta da una parte tra questa minaccia terroristica che ha colpito direttamente dei cittadini tedeschi e dall'altra parte le vicende di Colonia che sembrano mettere in discussione molto della politica della stessa Merkel. È chiaro che la signora Merkel è sotto fortissima pressione, il fatto che i morti di Istanbul siano tedeschi forse non può essere collegato direttamente al fatto che la Germania è coinvolta anche nelle operazioni militari sulla Siria, anche se non operazioni belliche, ma comunque aerei da ricognizione, navi e addestratori, le cose magari non sono strettamente legate, ma qualcuno fa anche questo collegamento. E poi c'è la vicenda ovviamente di Colonia, la cui eco non si è ancora spenta, le violenze nei confronti delle donne ad opera di gang, soprattutto di immigrati, è chiaro che ha provocato delle polemiche durissime sulla politica delle porte aperte. La signora Merkel, la prima risposta del governo è stata di rendere più facile l'espulsione di chi si macchia di crimini che possono essere condannati con una pena di reclusione fino a un anno, però è chiaro che per l'opinione pubblica questo probabilmente è ancora insufficiente. Evidentemente il governo continuerà a restare sotto pressione. Oggi il Ministero delle Finanze ha annunciato che il vastissimo surplus di bilancio, 12 miliardi di euro del 2015, verrà destinato all'accoglienza e all'integrazione dei rifugiati, però è chiaro che l'opinione pubblica si aspetta anche delle risposte dal punto di vista dell'ordine pubblico dopo quello che è successo a Colonia. Il governo resta sotto pressione, dovesse esserci un altro incidente di questo genere, c'è da chiedersi quali sarebbero gli sviluppi sul fronte politico. Ti ringrazio, grazie ad Alessandro Merli del Sole 24 Ore per questa analisi sulla situazione di Angela Merkel. Tra l'altro viene battuta dalle agenzie proprio in questi istanti la notizia che l'attentatore suicida che ieri ha ucciso 10 turisti stranieri a Istanbul aveva chiesto asilo politico in Turchia il 5 gennaio scorso, una settimana prima dell'attacco. Questo è quello che rivelano media locali. Veniva, lo ricordiamo, dalla Siria. Vale comunque la pena tornare a vedere quello che succede in Siria, le sofferenze nella città assediata di Madaraya, 50 km a nord-ovest di Damasco, della quale vi abbiamo diffusamente parlato nei giorni scorsi, nei pressi del confine con il Libano. Sono le peggiori registrate nel paese dilaniato dalla guerra civile, secondo quanto dichiarato dalle Nazioni Unite il giorno dopo l'entrata del primo convoglio di aiuti della Croce Rossa Internazionale. I primi camion di viveri, lo abbiamo detto, medicinali e coperte, sono giunti ieri pomeriggio. Valentina Furlanetto ha intervistato Silvia Dalla Tomasina di Medici Senza Frontiere. Nell'ultimo mese 30 persone sono morte per la malnutrizione, quindi per non aver mangiato a Madaya. Quindi questa situazione di persone che si nutrono di foglie è reale? È una situazione reale. la possibilità di trovare cibo era fino all'arrivo degli aiuti, almeno speriamo, impossibile. Il nostro staff medico non mangiava da una settimana e cercavano di nutrire i bambini con le ultime medicine disponibili, per esempio con gli sciroppi. Le ultime calorie disponibili, diciamo, erano quelle degli sciroppi che c'erano ancora nell'ospedale, ma che a un certo punto sono terminati. Sono arrivati questi aiuti? Dovrebbero essere arrivati, non abbiamo ulteriori dettagli di come la distribuzione procede a Madaya, ma sì, Madaya non è l'unica zona assediata della Siria e noi chiediamo che gli aiuti arrivino anche nelle altre zone assediate. Ci spostiamo a parlare di politica adesso, politica che ci porta ancora a Quarto, dove il sindaco Rosa Capuozzo, pur espulsa dal Movimento 5 Stelle, non sembra intenzionata a lasciare la carica, sembra intenzionata a resistere. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così. Rosa Capuozzo va avanti difendendo le scelte fatte, scelte ribadite anche davanti agli inquirenti che ieri l'hanno ascoltata in qualità di testimone parte offesa nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte infiltrazioni camorristiche nel comune di Quarto. Non denunciò il ricatto, questa è la sua versione, perché temeva che la vicenda avrebbe potuto avere conseguenze negative sull'amministrazione. Quanto all'aver minimizzato la questione con i vertici del Movimento 5 Stelle, questo perché la consapevolezza di essersi venuta a trovare sotto ricatto è maturata solo nel tempo. Fatto sta, Simone, che Rosa Capuozzo sarà ascoltata comunque ed anche il 19 gennaio prossimo dalla Commissione Antimafia. Mentre sul fronte politico continua il braccio di ferro tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, quest'ultimo critica la presenza ieri sera di Di Maio a Ballarò su Rai 3, un monologo inaccettabile, dicono i deputati Carbone e Marcucci. Su Quarto, aggiunge Alessia Rocca, crolla il castello di carte dei 5 Stelle. Il PD replica lo stesso Di Maio, cerca di intimidire, ci strumentalizza il caso e usa due pesi e due misure. Loro hanno avuto 83 indagati in un anno, noi solo un tentativo di infiltrazione. Da noi la camorra non ha avuto nulla, aggiunge sempre dai 5 Stelle Fico. È tutto, linea allo studio. Grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Veniamo alla cronaca italiana, a Firenze, dove proseguono le indagini sull'assassinio di una ragazza americana. Gli investigatori sono certi di essere a un passo dall'assassino di Ashley Olsen, la 35enne trovata morta sabato nel suo monolocale nel centro storico di Firenze. Probabilmente già ne conoscono il volto, ripreso dalle telecamere di sicurezza in via Santa Monica. I filmati hanno infatti immortalato la giovane americana mentre camminava in compagnia di un uomo poche ore prima di essere uccisa lungo la strada dove si trova il suo appartamento. Molti gli indizi che fanno pensare che la donna conoscesse il suo assassino, non ultimo il fatto che non abbia opposto violenza quando è stata strangolata con un cavetto, una catenina oppure un cavo USB. Gli investigatori pensano che si sia potuto trattare di un gioco erotico finito male. Gli investigatori attendono gli ultimi riscontri per un provvedimento giudiziario. Per questo il personale della Polizia Scientifica di Firenze è tornato stamane nella casa dove l'americana è stata uccisa per un nuovo sopralluogo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per rimanere in tema di cronaca, dovrebbe arrivare tra poco la sentenza a carico di Martina Levato e Andrea Magnani, imputati per alcune aggressioni con l'acido compiute a Milano tra novembre e dicembre 2014. Appena ovviamente arriverà la sentenza ve ne daremo conto. Parliamo di un'azienda italiana, parliamo di Diesel, che ha annunciato farà pubblicità anche sui siti porno. Only the Brave è uno dei pochi gruppi italiani della moda con un fatturato superiore al miliardo e il suo marchio di punta Diesel è famoso per i suoi premium jeans nel mondo. Deve vendere, come ogni marchio, e di pubblicità offline e online non può certo fare a meno. Aggiungiamo che Diesel e il suo fondatore Renzo Rosso hanno fatto della trasgressività, o almeno dell'andare controcorrente, uno dei loro tratti distintivi, nella comunicazione prima di tutto, e forse non ci si dovrebbe troppo stupire che sia il primo brand a comprare spazi pubblicitari su siti porno. Si comincia con Pornhub, ma le pubblicità di Diesel saranno anche su YouPorn, che è gestito dalla stessa società. Dire che si guarda un porno per vedere la pubblicità di moda è come dire che si legge Playboy per gli articoli, ha ironizzato la stampa straniera. Rosso non commenta. Lo fa il direttore artistico di Diesel, Nicola Formichetti. I nostri mondi, online e offline, sono fusi e io voglio sempre riflettere sul mondo in cui viviamo. Credo che dobbiamo essere onesti. Le persone da sempre guardano i porno e prima dell'online lo facevano su libri, magazine e VHS. A anni fa fu la campagna Be Stupid a essere criticata, ma poi ricevette ogni sorta di premio e diede grande impulso alle vendite di diesel. Sarà lo stesso con gli annunci su Pornhub? Giulia Crivelli per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con 43 milioni di visite e incassi per 155 milioni di euro, il 2015 si è confermato un anno d'oro per i musei italiani. Lo ha annunciato il ministro dei beni culturali, Dario Franceschini. La crescita è stata significativa anche rispetto al già positivo 2014, con un più 6% di visite, 2 milioni e mezzo di visitatori in più e più 14% di incassi. In due anni sono state 5 milioni di visite in più ai musei italiani. Prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, facciamo un punto sul calcio e ancora oggi è della Roma che dobbiamo parlare e del ritorno sulla panchina di Luciano Spalletti, l'addio di Garcia, l'annuncio ufficiale oggi. Dario Ricci, ciao. Eh sì, diciamo che la Roma ci ha risolto il problema dell'accento, eh? Garcia adesso non è più cosa nostra. Luciano Spalletti torna alla Roma, mancava solo l'ufficialità che è arrivata nella primissima mattinata, anche perché Spalletti era volato a Miami per incontrare Simone, il presidente della Roma, l'americano James Pallotta, che è stato il principale artefice di questa svolta, perché cambia l'allenatore ma la società rimane divisa, perché il direttore sportivo Sabatini ha difeso il lavoro di Garcia fino all'ultimo istante possibile, e quindi adesso chissà, forse andrà via anche lui. Torna Spalletti, che già era stato in giallo-rosso dal 2005 al 2009, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana nel palmarès, poi ha allenato lo Zenit San Pietro Burgo dal 2009 al 14 con due campionati russi e una supercoppa nel curriculum, un anno e mezzo di contratto. Oggi l'allenamento verrà diretto da Alberto De Rossi, il tecnico della primavera e papà di Daniele, e poi da domani alle 15:30 col primo allenamento inizierà l'era Spalletti, come con un esordio morbido domenica a Verona, ma poi subito dopo domenica da 24 alle 20:45 a Torino contro la Juventus, quindi quello sarà il banco di prova, quello stesso banco di prova che stasera, già stasera invece, affronta Sinisa Mihajlovic, Milan Carpi, quarti di finale di Coppa Italia. Una sconfitta vorrebbe probabilmente dire l'addio non solo alla Coppa ma anche alla panchina del diavolo. E grazie a Dario Ricci per questo aggiornamento. È appena arrivata la sentenza di condanna alla cosiddetta coppia dell'acido. Tutti i dettagli dopo il traffico. Effetto giorno. Condanna a 16 anni di carcere con rito abbreviato per Martina Levato per le aggressioni con l'acido, 9 anni per il complice. Resta in Italia fino al 30 aprile il Marola Torre, lo ha deciso la Corte indiana, trattative in corso per far tornare anche Girone. Un arresto per l'attentato di ieri a Istanbul, in manetta nel sud della Turchia, anche 3 cittadini russi per sospetti contatti con l'ISIS. L'omicidio della ragazza a Firenze, si analizzano le telecamere di sicurezza, potrebbe esserci un sospettato. E questo è sempre Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. E al microfono c'è sempre Simone Spezia, ci colleghiamo con la nostra Valeria De Rosa per un punto sulla sentenza appena arrivata e che riguarda Martina Levato, la condanna per le aggressioni con l'acido a Milano, delle quali tanto abbiamo parlato. Valeria. Sì Simone, come dicevi anche tu, la condanna è stata a 16 anni di carcere, erano stati chiesti per lei 20 anni, ricordiamo che in questo caso la sentenza è stata messa con rito abbreviato e che in quanto tale ha previsto uno sconto di un terzo della pena. In questo caso si parla di due aggressioni compiute a Milano nel novembre del 2014, in questo caso è stato condannato anche il bancario Andrea Magnani, presunto complice della cosiddetta coppia diabolica, per lui 9 anni e 4 mesi, erano stati chiesti 14 anni. Martina Levato, lo ricordiamo, era già stata condannata a 14 anni insieme al fidanzato Alexander Böcher per l'aggressione del 28 dicembre 2014 contro Pietro Barbini. Quest'oggi è stata condannata lei e Magnani, ma non Böcher, perché non ha scelto il rito abbreviato. Il processo per lui è a dibattimento davanti ai giudici della 11ª sezione penale di Milano e proseguirà venerdì prossimo, 15 gennaio. Grazie, grazie a Valeria De Rosa per questo aggiornamento. Noi torniamo adesso a occuparci di Istanbul, innanzitutto con una notizia appena battuta dalle agenzie: il numero delle vittime tedesche nell'attentato di ieri è salito a 10, lo ha detto il ministro degli esteri tedesco. In precedenza le vittime tedesche erano 8, non sappiamo se queste ultime due, delle quali è stata data notizia, siano le due persone che erano ricoverate gravi in ospedale. Ma parliamo di terrorismo anche per un commento, per un'analisi su quello che sta succedendo in Turchia. Ci colleghiamo con Alessandro Orsini, che è docente di sociologia del terrorismo alla LUIS, lavora anche, si occupa di terrorismo, insegna temi che riguardano il terrorismo all'MIT di Boston, e proprio là ha scritto un libro, tra l'altro, che uscirà il 28 gennaio per Rizzoli, e si intitola ISIS, i terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli, quindi promette di essere interessante. Orsini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Anzi, bentornato ai nostri microfoni. Orsini, prima di toccare il tema di quanto sia stato colpito il turismo e quanto venga colpito il turismo in queste settimane dall'ISIS, ricordiamo la Tunisia, ricordiamo l'Egitto e anche l'abbattimento dell'aereo russo appunto di ritorno da Sharm el Sheikh, che adesso la zona turistica di Istanbul, le vorrei chiedere proprio a proposito della Turchia, che cosa può cambiare a questo punto? Turchia, che è stata spesso accusata di essere, se non contigua, quantomeno di aver chiuso un occhio nei confronti del terrorismo dell'ISIS, e adesso forse si trova di fronte ad una svolta. Ma io credo che queste critiche siano ormai ingiuste e ingenerose e che siano state spazzate via dalle bombe dell'ISIS, anche perché l'ISIS ha una logica di ragionamento molto semplice che si riassume attraverso la formula colpiamo coloro che ci colpiscono, e siccome la Turchia è stata duramente colpita dall'ISIS negli ultimi mesi, mi sembra evidente che la ragione per cui è stata colpita è che la Turchia agisce in maniera efficace contro l'ISIS. Il punto è che noi prestiamo poca attenzione al ruolo importante che la Turchia ha svolto nella lotta contro l'ISIS, perché in realtà la Turchia lotta poco e bene contro l'ISIS, a differenza della Russia e degli Stati Uniti, che lottano tanto e male contro l'ISIS. E questo perché la Turchia si trova in una posizione strategica, confina con lo Stato Islamico, e da quando ha iniziato a controllare in maniera molto severa le proprie frontiere ha creato dei problemi enormi all'ISIS, soprattutto per quanto riguarda il flusso dei foreign fighters, che si è drasticamente ridotto. È vero anche dall'altra parte, Orsini, che parzialmente la Turchia ha sfruttato la presenza dell'ISIS per combattere delle sue battaglie, quella coi curdi in particolare. Ma questo direi che è vero in parte, nel senso che la Turchia sotto il profilo strategico e di certo nel lungo periodo teme di più i curdi rispetto all'ISIS, teme che i curdi possano conquistare ampie parti del territorio, teme il miglioramento dei rapporti e l'alleanza tra i curdi, gli Stati Uniti e altre potenze occidentali, quindi quello che lei dice è vero e coglie un punto importante, ma diciamo che questo atteggiamento della Turchia più che altro si è verificato all'inizio. Adesso la Turchia non può più agire come ha fatto in passato, per la semplice ragione che nell'ottobre scorso ha subito l'attentato terroristico più sanguinoso della sua storia, perché ad Ankara ci sono state appunto 102 morti e più di 400 feriti. Adesso arriva anche l'attentato di Istanbul ed è chiaro che altri attentati saranno condotti contro la Turchia, quindi la Turchia, per una serie di intricate con cause internazionali, è costretta ad assumere un atteggiamento sempre più duro nei confronti dell'ISIS. C'è una strategia specifica, Orsini, secondo lei, nel voler colpire il turismo e i luoghi turistici? C'è una strategia, ma in realtà la situazione è meno drammatica di quello che appare, perché i dati ci dicono che i terroristi non uccidono il turismo, semmai spostano i flussi turistici. Ad esempio, se ne prendiamo il caso della Tunisia, dal dicembre del 2010, che è il momento in cui inizia la primavera araba in quel paese, fino ad oggi il turismo si è ridotto, ma è cresciuto in maniera molto significativa in Marocco, che chiaramente è sempre un paese del Nord Africa. Tra le altre cose, i turisti sono persone di senso comune, quindi tendono, almeno questo è quello che ci dicono i dati, tendono a dimenticare gli attentati terroristici, in alcuni casi commettono anche degli errori, per esempio molti turisti non sanno che Sharm el Sheikh fa parte dell'Egitto, quindi tendono a non associare queste due realtà, e si verificano anche casi abbastanza anomali che noi studiosi facciamo difficoltà a spiegare. Ad esempio Bali subì nel 2002 e nel 2005 due terribili attentati terroristici, ma a partire dal 2005 in poi i turisti inglesi si sono decuplicati, addirittura sono diventati 20.000 turisti inglesi in più verso Bali nel giro di pochi anni. Direi che nel complesso i turisti sono influenzati da vari fattori e uno di questi è anche la forza che attribuiscono a un governo, quindi non sono influenzati soltanto dagli attentati terroristici ma anche dalla loro convinzione che un governo sia debole. Per esempio, quando ci fu il terribile attentato contro le metropolitane di Londra il 7 luglio del 2005, non abbiamo assistito a una riduzione dei flussi turistici verso Londra. Quindi in realtà il tema terrorismo-turismo è complesso, ma nonostante la sua complessità io direi che appunto la situazione è meno drammatica di come noi ce la rappresentiamo, perché quando i turisti mettono da parte dei soldi non rinunciano ad andare all'estero, semplicemente fanno scelte diverse e in alcuni casi, come le ho detto, sono scelte che noi studiosi facciamo anche difficoltà a comprendere. La ringrazio, grazie ad Alessandro Rozzini, che è docente di sociologia del terrorismo alla Luis Guido Carli di Roma, insegna anche all'MIT di Boston e appunto il 28 gennaio uscirà per Rizzoli un suo libro, ISIS, i terroristi più fortunati del mondo. E saluto Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore. Gerardo, buongiorno. Buongiorno a voi. E rimaniamo parzialmente, ma nemmeno troppo, sul tema della lotta al terrorismo per parlare di quel paese dilaniato che è la Libia, sulla quale fatica a delinearsi una strategia occidentale. Oggi tu firmi un pezzo sul Sole 24 Ore nel quale racconti che, insomma, Francia e Stati Uniti, e Francia e Gran Bretagna in particolare, starebbero pensando a ricominciare a bombardare, per così dire, la faccio molto semplice, lasciando sostanzialmente fuori l'Italia, col rischio che l'Italia resti esclusa, insomma, dalle vicende libiche che noi consideriamo strategiche. Ci tratteggi un quadro, Gerardo? Ma guarda, si sta, come dire, riproponendo per la Libia quello che è già avvenuto per l'Iraq. E in base all'ultima risoluzione delle Nazioni Unite, entro il 17 di questo mese dovrà essere formata la lista dei ministri. Entro la fine del mese, dopo un brevissimo parlamentare, il nuovo governo di unità nazionale si dovrebbe insediare a Tripoli. Il consigliere militare dell'inviato dell'ONU Kobler è il generale italiano Paolo Serra, che sta creando quella cintura di sicurezza necessaria a insediare questo governo. Una volta che verrà insediato questo governo, il governo la prima cosa che farà è chiedere un aiuto su cosa? Sulla stabilizzazione, sulla trasformazione delle milizie in un esercito e soprattutto nel combattere l'ISIS, un po' quello che anche il governo di Baghdad ha chiesto alla coalizione. Allora in quel caso che cosa potrà avvenire? Che chi, diciamo la Francia, e soprattutto la Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, hanno già deciso in Iraq e Siria di bombardare, bombarderanno in maniera chirurgica, aiutando ovviamente le forze libiche. Chi, come l'Italia, ha deciso invece di dare un supporto ma non partecipare attivamente ai combattimenti, darà il supporto. Tutti, diciamo, al momento riconoscono la leadership italiana nella diplomazia, perché gli accordi del Marocco sono in realtà frutto dell'incontro di Roma di dicembre, perché dal punto di vista umanitario l'Italia svolge un ruolo in Libia, anche gli ultimi feriti dell'attacco di Zitlan, dei 70 morti, sono adesso in questo momento curati all'ospedale romano del Celio. Insomma, ci abbiamo una leadership, ma è una leadership diplomatica. Qual è il rischio? Il rischio appunto è che mentre noi abbiamo la leadership diplomatica, poi in realtà il dividendo di una lotta all'ISIS lo prende, e lì parliamo di dividendi grossi in termini ovviamente di approvvigionamenti energetici, lo possono prendere gli altri paesi. Come spesso è accaduto, insomma, chi interviene militarmente poi si prende il dividendo, per così dire, della guerra. Un'ultima cosa, Gerardo, e molto brevemente, abbiamo letto di un attacco ad un impianto petrolifero dell'ENI, di cosa si è trattato? Ma a Mellita è dove c'è... Abbiamo perso Gerardo Pelosi, evidentemente c'è un qualche problema di collegamento, non sappiamo, è caduta la linea. Comunque, facciamo così, adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati nella seconda parte della trasmissione, magari torniamo a collegarci con Pelosi, così cerchiamo di capire che cosa è successo in questo attacco ad un impianto petrolifero dell'ENI, torneremo a parlare della vicenda dei due Marò, e poi questa sentenza di Strasburgo che sta facendo discutere molti. Un dipendente di un'azienda rumena, un rumeno a sua volta, è stato licenziato per uso privato eccessivo della mail aziendale e, insomma, a Strasburgo ha detto che questa cosa si può fare. Ovviamente chi usa la mail aziendale per fatti privati in questo momento sta dicendo: oddio, e che cosa mi può succedere? Ne parleremo con un giuslavorista tra poco. Effetto giorno. È arrivata la condanna per Martina Levato, accusata degli attacchi, della serie di aggressioni con l'acido. 16 anni, è stata tra l'altro riconosciuta la banda, lo dice il PM di Milano Marcello Musso. Resta in Italia fino al 30 aprile il Marò La Torre, lo ha deciso la corte indiana. C'è stato un arresto per l'attentato ieri a Istanbul, in manette nel sud della Turchia anche 3 cittadini russi per sospetti contatti con l'ISIS. L'omicidio della ragazza a Firenze, si analizzano le telecamere di sicurezza, potrebbe esserci un sospettato. È ufficiale la Roma, un nuovo allenatore, torna Luciano Spalletti al posto di Rudy Garcia. È il momento della borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, in attesa di recuperare il nostro Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore, che ci racconterà un po' di cose, se riusciamo a recuperarlo, su quello che è successo ieri all'impianto dell'ENI in Libia. Saluto Nicola Latorre, senatore del Partito Democratico e presidente della Commissione Difesa. Buongiorno Latorre, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, è stato lei per primo ieri a darci la notizia, anticipare la notizia di quella che sarebbe stata la decisione della Corte Suprema indiana, che ha deciso di lasciare Massimiliano La Torre, uno dei due Marò in Italia, fino al 30 aprile. E quindi l'abbiamo chiamata per avere qualche chiarimento in più, soprattutto sulla sorte dell'altra persona di Girone, perché lei ha detto, insomma, mi sembra di aver capito che le speranze sono buone anche per quanto lo riguarda. Ci dà qualche indicazione in più e qualche dettaglio in più, La Torre? Guardi, intanto prevedere la permanenza di La Torre in Italia era, non era un esercizio così complicato. Ed è francamente incomprensibile anche la reazione che a questa mia dichiarazione c'è stata da parte del governatore di Kerala, il quale in maniera del tutto incomprensibile e con una dichiarazione della quale non se ne comprende la ratio, posto che non è, diciamo, il presidente di un tribunale, ma è il governatore di una regione indiana, si è permesso di dire che i nostri Marò devono rientrare perché hanno commesso un crimine in territorio indiano. La Torre, vabbè, ma quella è politica, lo sa meglio di me. No, e insomma, allora noi, come i nostri fucilieri non hanno commesso alcun crimine, ma veniamo alla sua domanda. La cosa importante è che non è un caso che dopo 4 anni non c'è ancora un capo di imputazione, che il Tribunale per il diritto del mare, Amburgo, ha stabilito la sospensione di ogni procedimento giudiziario interno ai due paesi che hanno questo contenzioso. Per cui era facile dedurre che un pronunciamento di questo genere ci sarebbe stato, anche se è stato un pronunciamento dettato, come è noto, dal fatto che in relazione all'arbitrato il governo indiano non ha dato ancora alcuna indicazione e quindi la Corte Suprema ha ritenuto di prendere questo ulteriore tempo, considerato sufficiente per consentire questa decisione da parte del governo indiano. D'altro canto, oggi la Farnesina, e io di questo sono particolarmente soddisfatto, ha diffuso una dichiarazione nella quale annuncia che La Torre resterà in Italia fino al completamento dell'arbitrato. E vale la pena sottolineare che i nostri avvocati lì non hanno più posto il problema della permanenza in Italia di La Torre in quanto in condizioni fisiche precarie. Sì, ma semplicemente dell'arbitrato. Sulla base di tutto questo, io sono fiducioso, ma naturalmente su questo non mi sento di poter fare un pronostico più certo. Sono fiducioso sul fatto che la nostra iniziativa, tesa e che si discuterà nelle prossime settimane, tesa a chiedere che la stessa cosa valga anche per Salvatore Girone, e cioè fino alla fine dell'arbitrato possa stare in Italia, ritengo che ci siano delle buone possibilità. Quindi, ma naturalmente vorrei sottolineare, mentre quella sulla Torre era una previsione abbastanza certa, questa è una previsione che per la quale sono fiducioso, ma che deve essere, diciamo, confortata da una decisione. Benissimo. Nel salutarla, riassumo: la Torre era tornato in Italia perché stava male, aveva avuto un ictus, si è deciso questa volta di tenerlo, che può rimanere in Italia fino al 30 aprile, non per l'ictus ma per un altro motivo, fino alla fine dell'arbitrato, e su questa base ci sono buone speranze che anche Girone possa tornare in Italia. La ringrazio, grazie a Nicola La Torre per essere stato con noi, Presidente della Commissione Difesa, e saluto Giampiero Farasca, che è un giuslavorista responsabile del Dipartimento Lavoro per lo studio legale DLA Piper. Buongiorno. Buongiorno Farasca, benvenuto. Per parlare di questo caso che riguarda il ricorso presentato alla Corte di Strasburgo da un cittadino romeno che era stato licenziato perché la sua azienda aveva verificato che utilizzava troppo la mail aziendale per fatti privati, in sostanza, no? E la Corte di Strasburgo ha dato ragione all'azienda. Lei immaginerà, Farasca, in questo momento ci sono migliaia di persone nel panico perché utilizzano la mail aziendale anche per fatti privati e dicono: oddio, adesso mi potrebbero licenziare. Che cosa succede, Farasca? Esatto, sì, in effetti oggi ho visto anche un gustoso fondo di Severgnini che si è autodenunciato e ha chiesto di essere licenziato per questo. Allora, direi che la sentenza è di grande impatto, ma bisogna stare calmi, leggerla bene, e scopriremo che in realtà la sentenza ha detto qualcosa che da noi vige già dal 2007 addirittura. Mi spiego. I giudici partono da un principio: intanto ne parliamo in quanto era vietato usare la posta, in quel caso era Yahoo Messenger, ma è la stessa cosa, diciamo la posta elettronica dell'azienda per fini personali, cioè si ragiona solo dei casi in cui è vietato usarla per scopi personali. Com'era nel e quindi caso, deve essere espressamente scritto dall'azienda, cioè l'azienda deve espressamente vietare questo. Esatto, quindi già Severgnini è salvo. Perché anche se non è vietato o se è tollerato con una prassi, già siamo fuori da questa situazione. Poi, oltre a essere vietato, dicono i giudici, e qua è già questo concetto del vietato è già fu espresso dal garante privacy in Italia nel 2007, poi cosa si dice? Si dice che non ci deve essere aspettativa di segretezza, cioè oltre a essere vietato deve essere stato chiarito ai dipendenti che in qualsiasi momento ci potrebbe essere un controllo. Quindi so che non si può usare, in più mi è detto che attenzione, io se ne avrò bisogno farò accesso alla tua posta elettronica. Fatti questi due presupposti, c'è un terzo elemento: i controlli nei casi, insomma, se ci sono gli altri presupposti, devono essere comunque proporzionati, necessari e pertinenti, cioè non può esistere che io metto un sistema che guarda in anticipo tutte le mail di un dipendente, ci deve essere un motivo. Sulla base di quel motivo va fatto un controllo che non sia troppo lungo, che non sia massivo e sia rispettoso comunque delle informazioni personali che in caso si trovano. Quindi tutti giusti, titoli dei giornali e quant'altro, ma se andiamo a guardare poi questi, come dicevo all'inizio, sono esattamente i principi fissati dal Garante Privacy nel 2007 e ribaditi anche dal Jobs Act, perché Jobs Act ha ribadito questi concetti dicendo che le informazioni personali sono utilizzabili, quelle acquisite mediante strumenti di controllo a distanza. Addirittura il Jobs Act ha messo una tutela in più, ha detto che comunque questa utilizzabilità c'è se viene data un'informativa scritta. Quindi poi posso fare un commento più generale, perché fa scalpore brevissimamente, perché abbiamo 20 secondi. Esatto. Prego. Per fa scalpore perché le regole ci sono, ma in realtà nessuno ci ha mai prestato attenzione, siamo stati tutti un po' facilloni. Il mio consiglio è: fatevi tutti un account personale, usate quello, così non ce ne sono. Dubbi non ce ne sono e state tranquilli. Grazie a Giampiero Farasca, responsabile del settore lavoro dello studio legale DLA Piper. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero con ampio spazio all'ultimo discorso di Obama sullo Stato dell'Unione. Ci risentiamo alla fine per i saluti.